grandi spiagge con gli ombrelloni un po' sbiaditi, che dopo un'estate al sole sono già vecchi e rammolliti. Ora vorrei grandi tuffi fatti nel vuoto per un amore, che quando sei giù nel fondo anche la sabbia ti può far male. Ora vorrei grandi fuochi accesi attorno a una patata, quasi sempre cotta a punto, che quando l'hai in bocca sembra una pietra. Ora vuoi le notti in spiaggia fatte dai suoni di una chitarra, tutti all'alba infreddoliti, gli occhi inchiodati ad una stella. Ora vuoi, mia dolce bella signorita, I don't know my little baby, I don't know, I don't know. Ora vuoi, mia dolce bella signorita, vado per le vie del mondo, il cuore in gola a cercar fortuna. Adesso, ma in questo posto ci si fa una vita. Ora vuoi le scalinate a Lavanda Osiris e Piazza di Spagna, dove spina e violoncello fanno la corte a un sogno di panna. Ora vuoi a pezzi a piedi da San Giovanni al Mandrione, dove l'acqua manca sempre e la luce ancora deve arrivare. Ora vuoi al conduttore di un vecchio tram del Risorgimento, dove quando è brutto tempo non c'è mai un posto al riparo dal vento. Ora vuoi, mia dolce bella signorita, I don't know my little baby, I don't know, I don't know. Ora vuoi, mia dolce bella signorita, vado per le vie del mondo, il cuore in gola a cercar fortuna. Per le vie del mondo, il cuore ancora a cercar fortuna.